Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quindicesimo, versi 1-306. Romolo e sua moglie Ersilia sono stati assunti in cielo. E chi sarà in grado di assumere l'eredità di quel grande? Intanto si cerca qualcuno capace di prendersi in collo tanto carico, di succedere, insomma, a un re così grande. Il buon nome, che prefigura il vero, designa alla carica l'illustrissimo Numa, al quale non basta conoscere usi e costumi sabini, ha ben altri saperi il suo spirito ambisce, che vuole indagare i segreti della natura. L'amore per la materia lo induce a lasciare la curinatia e andarsene nella città che ha ospitato Ercole un tempo. Lì giunto, domanda chi mai può aver costruito bastioni greci su coste italiane, e uno dei vecchi del posto, competente di storie antiche, gli risponde con queste parole. Dopo un viaggio felice, raccontano che dall'oceano, coi buoi iberici, il figlio di Giove approdasse da queste parti, a Capo Lacinio, e mentre l'armento brucava l'erbetta, accedesse alla grande dimora del grande Crotone e sotto quel tetto ospitale trovasse un sollievo alla immane fatica, talché nell'andarsene qui al tempo dei nostri nipoti sorgerà, predisse, una grande città. Predizione avveratasi. Infatti da un certo Alemone era nato in Argolide un certo Miscelo, predilettissimo in cielo fra tutti i coetanei, sul quale, schiacciato dal sonno, si piega il dio con la clava e gli dice: «Lascia la patria e cercati in un paese lontano le acque che schiumano sulle ghiaie dell'Esare. Va!» Non avesse obbedito, si sente minacciare atroci castighi. A quel punto svaniscono insieme il sonno ed Ercole. Miscelo si alza e senza aprir bocca si ripassa la sua visione a memoria e per molto tempo non sa che pesci pigliare. Un dio gli comanda di andarsene, glielo proibisce la legge che prevede la pena di morte per chi voglia lasciare la patria. Il sole abbagliante ha tuffato nell'oceano la testa e la notte profonda ha estratto dall'acqua la sua tempestata di stelle e lui rivede lo stesso dio che gli ingiunge le stesse cose se non vuole incorrere in castighi ancora più atroci. Lui si prende paura davvero e decide di trasferirsi con tutti i penati. In città un parlottio si diffonde. Quello vuole violare la legge. Una volta istruito il processo, risultando evidente la colpa pur senza escussione di testi, il reo confesso, in gramaglie, leva al cielo il viso e le mani. Tu, Dio, che con le tue 12 fatiche ti sei promosso ai cieli, aiutami, grida. Dopotutto il mandante sei tu. Prevedeva un'antica usanza l'estrazione d'un sassolino, se nero mandare a morte l'imputato, se bianco proscioglierlo. Anche in quell'occasione la trista sentenza è emessa così e i sassolini nell'urna risultano tutti neri. Ma quando la capovolgono per contarli i sassolini, il colore dei sassolini è cambiato di nero in bianco e il candore della sentenza, propiziato da Ercole, assolve il figlio di Alemone, il quale, ringraziato il patrono, cioè il figlio putativo di Anfitrione, col favore dei venti, traversa il mare Ionio, oltrepassa la colonia spartana di Taranto, oltrepassa Sibari, oltrepassa Nereto, in Salento, Nemesa, il golfo di Turii, le pianure della Iapigia. E dopo tanta rassegna di terre che affacciano a mare, La fatidica foce del fiume Esare sì che la trova, e non lontano il tumulo che copre lo scheletro santo di Crotone. Lì, come ordinatogli, erige le mura di cinta d'una città che ricava il nome dal grande sepolto. Queste, secondo attestato da tradizione, le origini del luogo e della città fondata in terra d'Italia. Lì c'era un uomo che, nato a Samo, s'era in un colpo sottratto a Samo e ai tiranni, per odio della tirannide esule volontario, e sebbene fisicamente remoto dal cielo, egli attinse gli dèi con la mente, e quel che la natura nega ai nostri occhi, egli colse con gli occhi di dentro. Dopo aver penetrato ogni cosa con l'intelligenza e lo studio, insegnava agli altri, nel mezzo d'una turba muta di allievi che pendevano dalle sue labbra, egli spiegava le origini del vasto mondo, il senso delle cose, cos'è la natura, che cos'è Dio, come si forma la neve, la causa dei fulmini, se è Giove a fare i tuoni o i venti strappando le nuvole, chi fa i terremoti, che leggi presiedono al moto degli astri, e qualsiasi altro segreto della scienza. Ma per cominciare, proibisce di mangiar carne a tavola. Per cominciare, dice queste sagge parole, parole, ahimè, disattese. Guardatevi bene, mortali, dal profanarvi il corpo con cibi nefasti. C'è il grano, ci sono i frutti che piegano i rami da tanto che pesano, e le vigne coi grappoli gonfi. Ci sono tante insalate e tante verdure che si ammorbidiscono e insaporiscono al fuoco, e nessuno vi vieta né il latte né tantomeno il miele che profuma di fiori di timo. Prodiga d'ogni delizia, la terra vi porge vivande gentili e pasti senza bisogno di sangue e di eccidi. Si sfamano con la carne giusto le bestie, e non tutte. Cavalli, pecore e mucche si nutrono d'erba. Son solo gli animali d'indole torva e intrattabile, come ad esempio le tigri d'Armenia o i leoni, gli iracondi leoni, che so, i lupi, gli orsi, che adorano pasteggiare col sangue. Che orrore cacciarsi nei visceri i visceri d'altri, ingrassare il corpo bramoso ingozzandolo con il corpo di un altro, mantenersi in vita, che orrore, assassinando una vita. Fra le tante risorse che genera la terra, la meglio di tutte le madri, com'è che non provi piacere se non masticando con ferocia brandelli di carne, nemmeno tu fossi il ciclope? Com'è che se non ammazzi un'altra creatura non puoi saziare le oscene pretese d'uno stomaco senza ritegno? Ma una volta l'età che chiamiamo dell'oro era ben felice dei frutti degli alberi e delle insalate che produceva la terra da sé, senza l'uso di sporcarsi la bocca di sangue. A quei tempi gli uccelli battevano le ali per aria tranquilli, la lepre trottava nei campi senza paura, ed i pesci non finivano per dabbenaggine appesi ad un amo. Non c'erano trappole al mondo, non c'era pericolo di slealtà, e regnava la pace. Finché un disgraziato, non chiedermi chi fosse, chissà, per invidia dei pasti dei numi, comincia a cacciarsi dentro la pancia pietanze a base di carne, fornendo il pessimo esempio. In principio, immagino, il ferro si scaldò nel sangue di bestie feroci, d'accordo, ma ucciderle poteva bastare. Se quelle volevano uccidere te, prevenirle, lo posso capire, non era un'azione infame. Ma mentre ammazzarle era più che giusto, mangiarsele no. Poi le cose precipitarono, e la vittima prima, che sembra meritasse la morte, non fu che il maiale, perché col grugno dissotterrava i semi, compromettendo l'annata. Fu immolato il capro perché mordicchiava le viti a un bacco che pare chiedesse vendetta. Colpa, dirai, di quei due. Ma che hai fatto di male tu, pecorella, fatta per fare del bene all'uomo, con quelle mammelle gonfie di nettare, con la lana che ci procura i più morbidi dei vestiti, pecorella, tu che ci servi più da viva semmai che da morta. E che han fatto di male i buoi, animali che non ingannano, innocui, semplici, nati per sfacchinare e nient'altro. È un vero ingrato, non merita i doni di madre natura chi è capace di macellare il proprio assistente appena liberato dal peso del giogo, di mozzar con la scure un collo liso dalla fatica, di dissodargli il maggese indurito e di consentirgli tanti e poi tanti raccolti. E non basta infamie del genere commetterle, tanto vale imputarle agli dèi, pretendendo che le potenze celesti si compiacciano quando si scanna un laborioso giovenco. Vittima senza macchia e bellissimo, la bellezza è la sua rovina. Parato di bende e d'oro, lo portano davanti agli altari. Lui ascolta preghiere che non capisce e vede che gli sistemano in fronte, fra le due corna, spighe che ha fatto crescere e tinge di sangue il coltello che aveva magari intravisto, specchiato nell'acqua lustrale. E subito strappano viscere da un corpo che palpita ancora per studiarle e dedurne indizi delle intenzioni divine. Poi tale è l'umano appetito di cibi proibiti che osate mangiarvele, uomini che non siete altro. Non fatelo, ve ne prego, a questi miei moniti ve ne prego. Prestate attenzione. Nel mettere sotto i denti costate di manzo, rendetevi conto che state mangiando un vostro bracciante. Sentitelo. E siccome è un Dio che mi detta le parole, debbo ubbidire al Dio che mi detta e devoto aprirmi alla Delfi che ho dentro e dai cieli, svelando i responsi della saggezza divina. Canterò grandi cose, restate a lungo nell'ombra, giacché non prese in esame dagli avi. Ma a questo punto bisogna volare alto, lasciare la turpida terra dov'è, viaggiare le nuvole, insistere sulle spalle robuste di Atlante e guardar da un lontano lassù come sbandano questi insensati umani atterriti all'idea della morte. E così rincuorarli, srotolando sotto i loro occhi le dinamiche del destino. Razzaccia, intirizzita dal ghiaccio di morte, com'è che temi tanto le tenebre dello Stige, quei nomi inventati dai signori poeti, i pericoli di un mondo che non esiste? State pur certi che i corpi o consumati dal fuoco o putrefatti dal tempo soffrire non soffrono più. Le anime invece non muoiono, lasciata una sede, non fanno che trasferirsi in un'altra, accogliente anche quella, e lì stanno. Io stesso, se ben ricordo, durante la guerra di Troia, ero Euforbo, figlio di Panto, quello che si trovò un bel giorno piantata nel petto la lancia di Menelao. Poco fa, ad Argo, nel tempio di Giunone, ho riconosciuto lo scudo rotondo che un tempo portavo col braccio sinistro. Tutto cambia, nulla sparisce. Lo spirito circola. È qui, va lì, e lì viene qui, e si insedia in qualsiasi creatura vivente. Trasloca dal corpo delle bestie in quello dell'uomo e in quello delle bestie dal nostro. E mai va perduto. Si presta la docile cera a sempre nuove figure e non resta com'era e non conserva una stessa forma, ma è sempre la stessa cera. Così l'anima è sempre la stessa per quanto emigri da questa a quella figura. Credetemi. Ergo, perché la pietà non soccomba alla gola, evitate di estirpare da infami assassini anime vostre sorelle. Io parlo guardando lontano. Non nutrite il sangue di sangue. E visto che mi son messo in alto mare e spalanco le vele ai venti, ascoltatemi. Nulla è stabile al mondo. Tutto fluisce. Le immagini non fanno che andare e venire. Secondo un moto incessante è il tempo stesso che scivola come un fiume. Se un fiume non puoi fermarlo, non puoi fermare nemmeno il volo di un'ora. Ma come onde incalzano onde, e la stessa che rotola spinta spinge quella che la precede, così le frazioni di tempo fuggono e inseguono insieme e sono sempre nuove. Quel che è passato va perso, quel che non c'era c'è, e gli attimi cambiano sempre. Tu osservi e vedi le notti correre verso la luce e l'abbaglio del sole succedere alla tenebra delle notti, e il colore del cielo non è lo stesso quando sfinita la gente sprofonda nel sonno, o quando la stella Diana sul suo cavallo bianco sbucca dal mare, né quando l'aurora colora il mondo per consegnarlo ad Apollo. E lo stesso disco di Apollo che si stacca rosso da terra, rosso sarà nel cacciarsi sottoterra, ma all'apice è bianco d'un bianco abbagliante, in quanto la natura dell'aria è molto migliore, in quanto il contagio della terra non la contamina. D'altronde nemmeno la forma della luna, Diana, notturna, può conservarsi com'è. Se crescente, ogni giorno è più piccola del giorno dopo, è più grande del giorno dopo, se cala. Ma come? Non vedi che l'anno assume via via quattro forme distinte, quasi a imitare i ritmi della tua vita? Non vedi quanto somiglia al più tenero dei lattanti in primavera, cioè quando tenere sono le messi in erba e gonfie, un incanto di promesse per il contadino? È tutto uno sboccio, sorridono di fiori d'ogni colore i campi, mentre le foglie sono un po' deboli ancora. Dopo la primavera l'anno si robustisce e si fa un giovanotto. Non c'è a ben guardare stagione con più nerbo, più rigogliosa dell'estate e che scotti di più. Segue l'autunno, deposti i fervori della giovinezza, più maturo, più temperato, a mezza via fra ragazzo e vecchio signore, le tempie che cominciano a brizzolarsi. Poi ecco che arriva con passo tremolante il tristissimo inverno, senza un capello in testa, o bianchi i pochi rimasti. Anche il nostro corpo si altera senza tregua, la minima tregua. Quelli che siamo stati o che siamo oggi, domani non saremo mai più. Fummo un tempo un seme, una timida speranza di uomo nascosti nella pancia di nostra madre. Con mani esperte intervenne la natura e, non volendo che nei visceri tesi di mamma soffocasse il tuo corpicino, lo traslocò da quel primo recapito all'aria aperta. Venuto alla luce, il neonato sta lì sdraiato e impotente. Poi eccolo che si trascina a quattro zampe sul genere delle bestie e pian piano comincia con le gambette che tremano a stare in piedi e si aiuta aggrappandosi dove gli capita. Poi, con passo aitante e spedito, traversa la giovinezza. Dopodiché, consumata anche la mezza età, si avvia sulla brutta china del crepuscolo della vecchiaia. È il tempo che mina e smantella le energie del tempo passato. Al vecchio Milone viene da piangere quando si vede pendere flaccidi e inerti muscoli che per spessore e consistenza valevano la muscolatura di Ercole. E piange anche lei nel vedersi rughe da vecchia allo specchio, lei Elena, e si domanda perché mai l'han rapita due volte. Tu, tempo avidissimo, tu, vecchiaia invidiosa, voi tutto demolite e una volta guastato dai denti degli anni che passano, lasciate che i pigri rituali della morte consumino tutto. E non duran di più nemmeno i cosiddetti elementi. Quali fasi alterne attraversino, ve lo spiego purché stiate attenti. L'universo è eterno e consiste di quattro sostanze in grado di generare tutte le altre, due delle quali, più pesanti, il peso le tira verso il basso, la terra e l'acqua, mentre le altre due, che difettano di gravità, vanno in su se nessuno le schiaccia, l'aria e, più puro dell'aria, il fuoco. Sostanze che, pur separate nello spazio, tutto producono e tutto riassorbono. Come la terra nel diradarsi si fluidifica in acqua, così attenuata dal vento, l'acqua svapora in aria, la quale, scemando ancora di peso, va ancora più in alto e lassù, risoltasi in fuoco, divampa. E qui si riavvia il protocollo ripercorso in ordine inverso. Il fuoco ispessisce, addensandosi fino a tornare in aria, l'aria in acqua, e l'acqua finisce per ricompattarsi in terra. Nulla conserva l'aspetto che aveva, e lei, la natura, innovatrice di tutto, da una forma spreme altre forme. E niente nell'universo quanto è grande, credetemi, muore. Ma muta, altro che, si rinnova tutto, e chiamiamo nascere, cominciare ad essere altro da ciò che eravamo, morire, smettere di essere quello. E per quanto le cose si spostino e con altre cose si scambino, la somma è sempre la stessa. Io non credo esista qualcosa che conservi a lungo l'identica impronta. Siete passati dall'oro al ferro o no, secoli? Quante volte avete veduto ruotare il destino, paesi? Con questi occhi ho visto terreni solidissimi rimpiazzati dal mare e distese d'acqua diventare pezzi di terra. Si sono trovate lontane dalla spiaggia conchiglie marine e più d'un'ancora antica in alta montagna. Di ciò che un tempo era un campo, l'ondata di piena ha fatto una valle. Alluvioni non han traslocato catene di monti nel mare? Non si sono asciugate e coperte di sabbia paludi? Regioni screpolate un tempo di sete non sguazzano negli acquitrini? Qui la natura ha dischiuso una nuova sorgente, laggiù ne ha otturata un'altra, e in ragione di terremoti remoti sono spuntati moltissimi fiumi, altri sono scomparsi. È così che il Lico, ad esempio, risucchiato in una voragine, è risbucato da terra per un'altra apertura a distanza. È così che il grande Rasino, bevuto dal suolo, sgattaiola sottoterra per rispuntare nelle campagne di Argo. E in Nisia il Caico, raccontano, vergognandosi delle sue fonti e del bacino d'origine, ha cambiato la sua direzione. E l'Amenano, altro esempio, che trascina sabbie in Sicilia, ora scorre, ora le sorgenti prosciugatesi, è secco del tutto. Una volta era potabile la Nigro, adesso guardatevi dal bere l'acqua che sversa, da quando, se un minimo credito dobbiamo ai poeti, Lì dentro i centauri si sono sciacquati le ferite inferte dall'arco di Ercole, eroe con la clava. E Lipane, che scaturisce dai monti di Scizia, una volta non era dolce, che oggi è guasto di sali amari. Ancora? Antissa e Faro e Tiro Fenicia non erano circondate un tempo dal mare, che ora non sono più isole. I vecchi coloni di Leucade abitavano sul continente, ora l'acqua li assedierebbe. E anche Messina, si dice, fosse un tempo congiunta all'Italia, finché il mare non si mangiò la giuntura e scostò l'una terra dall'altra, insinuandosi in mezzo. Se cerchi Elice e Buri, città della Caia, le trovi sott'acqua. Tant'è, i marinai si compiacciono ancora di farti intravedere città diroccate e bastioni sommersi. Vicino a Trezene, in Argolide, c'è un colle piuttosto elevato e senza un albero sopra. Un tempo pianura piattissima. Ora colle, come dicevo. Infatti, ma dirlo fa orrore, la furia pazza di venti che reclusi in cunicoli ciechi da qualche parte volevano sfogare e s'erano invano battuti per conquistarsi un po' d'aria aperta, ma senza trovare in tutta la loro prigione una mezza fessura per sfiatare, atteso la furia, il terreno, gonfiandolo come si tende una vescica o un otre di pelle di capro a soffiarci dentro. E il terreno ha conservato il gonfiore, sagomandosi in colle e indurendo col passare del tempo.